Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica, soprattutto buona Pasqua. Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e, come promesso, l'argomento di oggi riguarda qualcosa che, insomma, sta nel cuore sicuramente a moltissimi di voi, sta nel cuore a me. Molti non lo conoscono, ma forse lo conosceranno molto presto e comunque ne hanno sentito sicuramente parlare. Questa infatti è la sigla, la prima sigla del Carosello. Alcuni non sarei, io non me la ricordo, per esempio, perché sono arrivato un po' dopo, per cui questa era troppo così, troppo vecchia per me. Mi ricordo quella degli anni 70, la sentiremo oggi nel corso della puntata. Infatti parliamo proprio di Carosello, di questo fenomeno da tanti punti di vista, non soltanto pubblicitario ma anche di costume. È un fenomeno che può essere raccontato in tanti modi, cercheremo di farlo con i tanti ospiti che oggi abbiamo, non sono in studio ma come sempre anche al telefono. E per iniziare la puntata dedicata proprio al Carosello ho pensato a una delle icone, forse a uno dei personaggi che molti ricordano proprio grazie anche al Carosello. Poi, insomma, tutti sapete benissimo di chi sto parlando, appena apri la bocca sentirete chi è, la conoscete, artista straordinaria, però anche lei legata in qualche modo al Carosello. Questo povero mio cuore che fa bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Brava, brava, brava, brava, brava. Certo, quando si pensa a Mina si pensa alla sua voce e non la si collega soltanto, anzi quasi per niente, alla Barilla, che era la marca che pubblicizzava. Invece altri famosissimi attori sono stati, e non soltanto, anche musicisti, sto pensando a Franco Cerri, sono stati legati forse fin troppo al Carosello. Franco Cerri, l'uomo in ammollo, e tutti se lo ricordano per quello. E infatti anche recentemente l'ho visto a un concerto, diceva so benissimo che è una cosa da non toccare, è un grande chitarrista, jazzista, e così, quello è stata un'esperienza. Però tutti se lo ricordano per quello. Michele Tosi, ciao, buongiorno, buona Pasqua e buona domenica a tutti. Allora, come dici tu, oggi le abbiamo tutte. Allora, da copywriter, sì, dovete sapere che da copywriter Michele Tosi ha preparato un biglietto d'auguri con un coniglio visto di spalle, con un pesce d'aprile dietro la schiena, un orologio in mano e un uovo di Pasqua, perché oggi succedono tutte queste tre cose. Sì, domani è il primo d'aprile, sì, però è vero, è una festa impegnativa, molto. Bisogna stare molto attenti, dobbiamo ricordarci tutto. Esatto. Allora, Carosello è talmente forte, importante, che ha cancellato da un certo punto di vista anche le abilità e i talenti di attori o di musicisti. Ah sì, se le magnate. Nel senso che ha cannibalizzato veramente attori, cantanti, interpreti, di tutto. Al punto che i personaggi stessi erano così famosi e pericolosi che si cannibalizzavano anche i prodotti stessi. Per cui erano più famosi i testimonial, o inventati apposta per Carosello, o la formula stessa della creatività, da far sparire quegli ultimi poveri 30 secondi di pubblicità. Ecco, perché la formula del Carosello era molto precisa, e sì, poi i tempi cambiano con gli anni. Sì, leggermente. E all'inizio c'è una storia che niente deve avere a che vedere col prodotto, non, e poi invece gli ultimi 30 secondi sono legati al prodotto. Sì, ecco. I primi due minuti, c'è stato un periodo in cui erano due minuti, se non di più, due e mezzo in totale, sì, non potevano avere nessuna affinità, attinenza, citazione, non si poteva mostrare il prodotto nella maniera più assoluta. Invece negli ultimi 30 secondi, con altrettante regole, numero di volte di citazione del prodotto eccetera, invece era a disposizione del cliente. E quindi lì ci si sbizzarriva. Ma non solo, sì, c'era un aneddoto, una cosa particolare, che ogni produzione di due minuti poteva andare in in onda solo una volta, quindi veniva preso, messo in onda e poi buttato via. Da lì nascono quindi le serie. Ah, quindi non è possibile rivedere lo stesso episodio. Per quello erano nate le serie, quindi i vari Calimero, ogni volta una storia diversa. E ne sentiremo tante oggi di serie, ne racconteremo perché tutte sono estremamente interessanti, sono anche molte. Sì. Abbiamo fatto un po' una scelta, però potremmo star qui veramente tutta la giornata a parlarne. Lo facciamo comunque, non per tutta la giornata, ma per circa 2 ore. Il riposo del guerriero. Cominciamo subito con Piero Dorfles. Buona Pasqua, buona domenica. Grazie altrettanto. Giornalista, critico letterario, io ho ripescato un libro che ha 15 anni, ma che rimane attuale perché Carosello si è fermato a un certo punto, poi quindi quello che è stato scritto è ancora attualissimo. Un libro che si intitola semplicemente Carosello. E partirei da una frase di Umberto Eco citata proprio nel suo libro che dice: in ultima analisi Carosello ha prodotto una di quelle situazioni abbastanza rare nella storia della società dei consumi per cui il pubblico anziché subire desidera e richiede la pubblicità. Effettivamente è stato un caso unico nella storia, ma anche perché era unico il momento in cui questo è nato. Bisogna considerare che Carosello nasce subito dopo la nascita della nostra televisione e soprattutto nasce nel momento in cui la televisione è ancora monocanale e non ci sono né concorrenti né altre possibilità di guardare altre televisioni, c'è un solo canale. Ora, in quel momento la televisione non aveva ancora la pubblicità. Quando si è deciso di fare la pubblicità in televisione si è detto cerchiamo di fare qualcosa che abbia a che fare con la stessa struttura che ha in questo momento la televisione, e cioè una struttura fondamentalmente pedagogica e didattica. Ecco, e quindi nasce appunto il Carosello, tra l'altro è scritto da grandi scrittori, sceneggiatori, diretto da grandi registi, per cui le mani erano di grande talento, e anche gli attori che poi interpretavano i vari ruoli dei siparietti che venivano a costruirsi. Tutto questo non dico che si è perso completamente, ma quasi. Oggi quando un grande regista fa una pubblicità diventa un evento, non è la quotidianità, anche se poi sono tutti registi bravissimi, voglio dire assolutamente di no, però in realtà in effetti c'era la cultura dello spettacolo in quel senso. E il concetto è che l'Italia conosce una realtà completamente nuova e quindi la desidera. E quali sono, secondo lei, gli elementi che sono andati completamente perduti rispetto alla pubblicità di oggi? Ma io credo che in realtà non ci sia molto che è andato completamente perduto, perché oggi la pubblicità è tornata a raccontare storie, spesso storie anche abbastanza lunghe, alle volte che non hanno niente a che fare con il prodotto che viene pubblicizzato, esattamente come accadeva con Carosello. Naturalmente questo però in tempi e in termini molto diversi. La specificità di Carosello era di avere esattamente 2 minuti di storie e mezzo minuto di pubblicità, 2 minuti di racconto e mezzo minuto di codino pubblicitario, così si chiamava, e le due cose non potevano solamente essere sovrapposte. Qui sicuramente si è superato questo modello, se non altro perché oggi nessuno impone un tale rigore a un prodotto pubblicitario. I pubblicitari lo rifiuterebbero, e lo rifiuterebbero gli inserzionisti pubblicitari. Allora non soltanto non avevamo una sola scelta di canale, ma come dire, quel canale aveva la potenza di imporre quello che voleva, perché era l'unica televisione di esistente, e quindi diceva o così o non si fa la pubblicità. Questo sicuramente era la cosa che oggi non c'è più, però la sostanza in fondo, se uno guarda bene, è rimasta la stessa, perché dopo molto tempo in cui le pubblicità sono state molto brevi, poco significative, spesso totalmente sprovviste di strumenti narrativi, oggi tutto sommato a me sembra che noi siamo tornati a quella cosa, e quindi la grande lezione di Carosello, che sicuramente è stata superata e passata, in realtà per certi versi è ritornata in auge. Ecco, quindi cicli e ricicli. Io poi così ho fatto anche un'altra considerazione. Tra l'altro volevo raccontare agli ascoltatori che il libro di Piero Dorfles in qualche modo è visivo, perché durante il racconto, l'analisi del Carosello, Piero Dorfles racconta, devo dire anche molto bene, i caroselli a cui fa riferimento, per cui è un po' come guardarli pur non vedendoli, e quindi c'è questa bella unione, e quindi fa bene anche soltanto a leggerlo, perché lo fa anche vedere. Se poi avete la fortuna di avere il computer con YouTube, potete anche andare a recuperare i video nel vero senso della parola. Volevo farvi ascoltare questo momento di Clorodont. Frigio al Cloro presenta l'Irnalisi, la bocca della verità. Signora Lisi? Sì? Senta, due parole. No, no, niente sulla pittura, per favore, non me ne intendo. Per questo lascio parlare i critici. Ah, beh, allora qualche domanda sulla bellezza eternata dagli artisti, cantata dai poeti. C'è chi per una bella donna si è tolto la vita. Oh, beh, non per niente la bella donna è un mortale veleno. Ma è anche un formidabile medicamento. Mi creda, preso a dosi molto, ma molto piccole. Lei ci scherza su perché è una bella donna, ma se lo fosse un po' meno, se fosse addirittura bruttina. Mi sarei consolata pensando che le donne brutte invecchiano meglio delle belle donne. E se infatti passano dall'ombra all'oscurità. Cosa crede che pensino le donne brutte e delle donne belle? Sa come sono le donne, o non pensano a nulla o pensano completamente a un'altra cosa. Per favore risponda. Ma che cosa vuole che le dica, scusi? Le donne brutte, quando esiste una bella donna, non la vedono neanche. Davvero? Mi spiego, non è che non la vedano. Diciamo che non la possono vedere, ecco. Insomma, secondo lei essere brutte è un bel malanno. Sì, la bruttezza è un malanno che forma l'infelicità di una donna, ma la gioia di tutte le altre. Ma signora Lisi, cosa dice? Ho detto qualcosa che non va. Con quella bocca può dire tutto. Ecco, può dire tutto. Così Bernalisi appunto pubblicizzava un dentifricio, ma Piero Dorfles è politicamente scorrettissima. Oggi se noi, non so, facessimo una pubblicità raccontando questa cosa, in qualche modo non saremmo tanto ben visti, o mi sbaglio? Si osava molto di più. Certo, l'ironia e l'insofferenza di tutti quelli che dicono non ci si può permettere di parlare male così delle brutte donne, ma questo è il senso di che cosa è cambiato negli ultimi 60 anni, non è soltanto Carosello, è cambiata la vita, e Carosello per certi versi è stato, come tutta la televisione, un magnifico specchio di quello che era quell'epoca. Però io sono convinto che era qualcosa di più, perché oggi tendenzialmente la pubblicità dà soltanto quello che già c'è, e cioè ci rappresenta così come siamo, con difetti e qualità, e se vuole anche con una buona dose di modernità in più rispetto al Carosello di una volta. Ma il Carosello, che come dicevo prima nasce nel momento in cui la televisione ha ancora una profonda vocazione pedagogica, era anche pedagogico, e anche se in questo caso noi vediamo che usava dei termini abbastanza sorpassati, perché riguarda la definizione dei tra i sessi, questa esasperazione del ruolo di una bella donna, bene, comunque dentro Carosello c'era una serie di riferimenti a quelli che sono gli più importanti per sprovincializzare un paese, quindi la visione del mondo, viaggi, la possibilità di utilizzare elettrodomestici sempre nuovi, la donna che lavora, la possibilità di fare lavori diversi, di uscire di casa, insomma, era un paese che stava uscendo da una dimensione arretrata e contadina, e quella pubblicità non era soltanto un invito a consumare, era anche un invito a crescere, a guardare il mondo, a osservare il mondo, essere più cosmopolita. Ecco, io volevo chiudere con l'ultimo capitolo, quello che chiude il libro, Assassino, Movente, Mandante, così si intitola. Chi ha ucciso Carosello? Glielo domando. Carosello praticamente si è ucciso da solo, nel senso che non poteva sopravvivere non essendosi modificato a sufficienza nel tempo. Ma dicevo prima, la cosa fondamentale è il passaggio da una televisione monocanale a una televisione con molti canali. Era molto difficile poter continuare a fare pubblicità in quel modo quando, essendosi molti canali, sugli altri le pubblicità erano più veloci, più semplici, ed era soprattutto un sistema molto costoso, perché costringere a fare 2 minuti di spettacolino per una pubblicità voleva dire dare all'azienda il compito di creare ogni volta un piccolo programmino tutto a sé. Belli, spesso raffinati, però tendenzialmente era un costo molto più alto. Sì, anche perché appunto Michele Tosi ci raccontava un attimo fa che non potevano essere replicati, di conseguenza buttato via, vuol dire una produzione un pazzesca. Nuovo, un costo enorme per l'altra cosa che non è marginale è che, essendo così lunghe queste inserzioni pubblicitarie, impedivano per il costo e per la lunghezza l'accesso della grande maggioranza degli inserzionisti, quindi solo le grandi aziende potevano permettersi di entrare in quel circuito e di produrre. La nuova televisione che nasce dopo la morte di Carosello, dopo i 20 anni di televisione italiana segnati da Carosello, è una televisione molto più aperta, una televisione che dà spazio a tutti, una televisione che cerca di produrre pubblicità anche con le aziende più piccole. Questo sicuramente è stato il momento che ha cambiato tutto. Carosello, poi ecco, la televisione commerciale certo, arriva. Carosello avrebbe dovuto tornare a metà marzo, non è successo, dovrebbe tornare su Rai 1. Lei cosa ne pensa? Ah, mi sembra un'operazione nostalgia di quelle che ogni tanto accadono quando si dice com'era bella le cose di una volta, quando ero piccolo le cose più belle. Purtroppo tutti abbiamo sempre la sensazione che la nostra giovinezza, forse meglio della nostra maturità, temo che sia dovuto più al fatto che gli anni sono passati che non perché la realtà era meglio una volta che non oggi. Io sarei molto attento a questa operazione di nostalgia, anche perché tornare indietro in quella direzione mi sembra onestamente impossibile. Tanto lo slittamento già della data di partenza già ci fa pensare qualcosa. Dovremmo chiedere al pianeta Papalla se sanno qualcosa, visto che loro arrivano dal futuro. Grazie Piero Dorfles, davvero. Auguri ancora. Carosello, edizioni Il Mulino, se volete leggere. Il libro è veramente molto interessante, racconta tante cose e fa un'analisi molto interessante e approfondita degli aspetti che riguardano proprio il Carosello. Michele, ascoltavi con attenzione. Io ascoltavo con attenzione perché in effetti abbiamo un parere molto competente e devo dire che il fatto di avere questo spettacolo che era un po' lo specchio del momento, addirittura istruttivo, era molto particolare perché in effetti io mi ricordo da bambino, nel grande nulla, Carosello era tutto, perché non c'erano tanti cartoni animati, non c'era tanto show, eccetera, per cui era molto bello vederlo, era molto atteso. E si imparavano le canzoncine, si imparavano Ne sentiremo oggi cose. Le canzoncine tante, sentiremo anche le filastrocche. Giù nel Montana, tra mandrica o voi, c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack ha saltato la banca ed ha dritto ha sparso la voce che fu il sottoscritto, per cui a fuggire braccato mi accingo, però me la paga parola di gringo. Gringo. Il riposo del guerriero. Prima della pubblicità abbiamo ascoltato un pezzetto di Gringo, una carne in scatola, pubblicizzava rigorosamente tutto in rima. Una meraviglia. Ma sarà per questo? Io ho notato che veramente una valanga di Caroselli erano scritti in rima. Oggi le rime si sono completamente perdute. Questo è un po' un mio vezzo, cioè nel senso che le rime venivano punite già dalle maestre elementari quando uno faceva il dettato. Ma era l'unico modo per ricordarsi le cose, sono le rime. È un fatto per ricordare nozioni del cliente, nozioni di briefing, come diciamo noi, per descrivere il prodotto. In questo caso invece era un gioco veramente ad intreccio tra... per chi se lo ricorda, Gringo aveva questa tecnica di foto, disegni fatto un po' a passo, una roba molto bella, molto innovativa per i tempi. Si era inventato un personaggio, quindi vista la serie necessaria per andare in onda in continuazione, avevano un testimone, hanno inventato e hanno costruito il buono e il cattivo con queste storie assurde e questo speaker bellissimo che parlava tutto in rima, quindi in specie di spaghetti western demenziale con delle cose in rima raccontate sotto per arrivare a mezzogiorno di cuoco. Ah, così si chiamava? Sì, finiva con questo quindi questo non ha inventato niente finale, nessuno mezzogiorno di cuoco per fare la rima e c'era sempre il Gringo. Tra altre cose poi ci sono anche delle rime che non avrebbero dovuto essere, sarebbero state solo cambiando le parole, la finale della parola, e sempre diceva avrei dovuto dire così, ma invece dico così, perché sennò la rima non ci sarebbe stata. Sì, anche questo era un gioco. Era un gioco proprio del così scoprire le carte, giocare con chi ascolta. Torneremo su Gringo tra un po' con un personaggio, ma più tardi, tra mezz'ora circa. Non lo sai neanche tu, ma è una bella sorpresa. Dopo sentirai sicuramente. Tu, Michele, hai selezionato un certo numero di Caroselli che hanno avuto come testimonial dei personaggi inesistenti, cioè costruiti apposta, cioè non attori, non cantanti famosi. Sì, io li ho scelti da creativo, nel senso che secondo me la parte creativa, bella, innovativa di Carosello, soprattutto in quei primi 2 minuti difficilissimi, era quella di poter costruire qualcosa di interessante che potesse attirare l'attenzione, divertire e avere un'attinenza, perché molto spesso queste storie avevano una meravigliosa attinenza per poi arrivare al prodotto. Chi era sporco, chi era nel West, quello sporco è molto, eccetera, molto famoso. Mamma mia, che buio! Mamma, mamma, dove sei? Mamma, mammina. Io non so cosa stia succedendo in questo caso. Non mi ricordo lo spot. Comunque no. Avete riconosciuto la voce inconfondibile. È la voce del Calimero, il pulcino nero. E il pulcino nero che poi rima. Si lava. E te, certo, Calimero. Con tanto di mezzo uomo in testa. Sì, sempre. Come cappello. Non si è mai visto, sì. La mezza testa. Mario Serenellini, buona Pasqua, buona domenica. Buona Pasqua anche a voi. Allora... siamo a Bologna, ci sarà il Future Film Festival, siamo alla 15ª edizione, dal 12 al 17 aprile e proprio sì. In occasione di questo festival si festeggiano i 50 anni della nascita di Calimero. Perché avete scelto questo personaggio, Mario? Ma guarda, io dal Future Film Festival collaboro ormai da 12 anni, quindi quasi dall'inizio, e ho inserito un po' così, un po' per scherzo, un po' anche per provocazione culturale, una sezione che si intitola L'archeologia del futuro, cioè tutto ciò che è avveniristico nel passato. E Calimero evidentemente è un pulcino che è appunto pieno di futuro, nel senso che tra l'altro ha avuto un successo, una vita interminabile, appunto diciamo che è l'unico pulcino rimasto pulcino dopo 50 anni, è un pulcino di successo e adesso tra l'altro in Francia stanno preparando una serie, la prima serie in 3D, tra l'altro creata da istituti importanti come TF1 o come Gaumont, sempre con la supervisione di Marco Pagot, che è l'erede diciamo delle piumette. Sì, del creatore. Tra l'altro, ecco una parentesi, purtroppo non ha potuto essere con noi perché è in volo, in questo momento non poteva rispondere al telefono, se no l'avremmo sicuramente sentito. Lui è ormai in pianta stabile in volo tra Milano e Parigi, perché tra Milano dove ha lo studio e Parigi dove si sta costruendo questa serie è sempre molto impegnato. E dunque Calimero evidentemente è uno dei personaggi che tra l'altro anche rappresentano in un modo molto ufficiale, molto orgoglioso il nostro Made in Italy, perché poi uno dei nostri personaggi, altri che sono nati o nei paraggi di Carosello o all'interno di Carosello, come non so il signor Rossi di Bruno Bozzetto e altri, però Calimero è un personaggio che ha viaggiato tutto il mondo e addirittura in Giappone, dove ha avuto molte serie costruite su di lui, è diventato ormai, è riconosciuto come un personaggio assolutamente giapponese, cioè per i giapponesi Calimero è giapponese. Potevamo immaginarcelo. Una specie di parente prossimo del sushi. Ecco, scusami, perché Michele mi faceva notare perché conoscendo Marco Pagot, sì. L'immagine di Calimero è stata presa da una banca giapponese, quindi ci sono gli assegni con su Calimero, le insegne con Calimero. Sembrano quelli per i bambini, altro che archeologia. Senti, è un andato e ritorno in questo modo. Ecco, Serenellini, l'ultima domanda che le faccio è questo, che ti faccio è questa. Perché questo successo di Calimero, secondo te? Qual è il segreto? Se ce n'è uno, non lo so. È il successo un po' di tutti. Ci sono due motivi principali, secondo me. Beh, uno è quello che ha rilevato Umberto Eco, dicendo che Calimero è un personaggio che è passato molto presto a diventare un nome comune, cioè è stato preso a immagine e somiglianza di tutti i diversi, gli emarginati, gli sfruttati, eccetera. Uno dice no, sono un Calimero, sì. E poi cioè, c'è questa self-pity che tra l'altro è molto italiana, che ha aiutato, insomma, a far diventare universale il personaggio e a renderlo un po' l'etichetta, tra l'altro anche molto politica, perché non c'è politico anche di diverse posizioni che non se ne sia servito per dire no, non sono un Calimero, oppure sì, mi trattate come un Calimero. Dall'altra parte è un personaggio che vive di molti miti fiabeschi. Beh, si è fatto riferimento ovviamente subito al brutto Anatroccolo e nei primissimi Calimeri dei caroselli televisivi si vede proprio il piccolo Calimero a confronto con la schiera armata dei normali, dei piccoli Calimeri bianchi che passano fieramente davanti a lui, dove c'è anche un prestito dal brutto Anatroccolo trattato da Walt Disney molti anni prima, ma anche se si vuole c'è anche un richiamo al nostro Pinocchio, perché c'è l'olandesina che è la fatina, non dagli capelli azzurri, dai, quello che lo lava, che lo trasforma, che lo rende, no? Umano, nel senso lo rende bianco, sì, certo. Per cui ci sono molti richiami, diciamo, alla nostra mitologia domestica, familiare, e la realtà storica, è che tutti in realtà è tutti noi siamo un po' Calimero in qualcosa e quindi ci riconosciamo nel personaggio, mentre questa è la sua forza. Grazie. Anche l'Italia oggi mi sembra. Sì, un beh, questa Calimera, e non soltanto l'Italia, mi sa che mano a mano i paesi stanno diventando tutti così, senza però mezzo uovo in testa. Grazie Mario Serenellini, e io voglio ricordare il Future Film Festival, siamo a Bologna dal 12 al 17 aprile. Buona domenica ancora e auguri. Grazie, a presto. Grazie. E un personaggio che è un po' la forza anche di Paperino, no, Michele Tosi? Ma sì, perché sono i diseredati, i poverini, in cui uno ci si immedesima immediatamente. A proposito di futuro, siccome è stato accennato al futuro, sì. È venuta in mente questa pubblicità qui, senti un po'. Siamo sul pianeta Papalla, dove sono le donne che scelgono il marito con il calcolatore elettronico. Lola, come lo vuoi il marito? Un tipo rude, intraprendente, costruttivo. Ricevuto, Lola. Allora, qua stavamo dicendo chiaramente che eravamo in un'epoca in cui erano gli uomini a scegliere la donna e non il contrario. Sì. E l'uomo deve essere rude, intraprendente, quelle sono le regole. C'è anche una canzone di Mina, tra l'altro, che è Taratata, se non mi sbaglio, dove il testo dice tu che hai l'alito che sa di fumo, quindi sai di maschio, cioè fondamentalmente quello era il senso della canzone. Ma oggi una cosa così non potrebbe mai funzionare, mai. Ma siamo scorretti in altri modi, però è vero. Com'è che siamo scorretti oggi? Siamo scorretti. Anzi, con siete voi. Siamo scorretti con degli scoiattoli che flautolenti. Vabbè, ma quello è più semplice. Quello è più semplice da un certo punto di vista. Io penso che la stessa cosa nella scorrettezza degli anni 60 questa non sarebbe mai passata di un... Non si poteva parlare di quelle cose. Non si poteva parlare, certo, di gambe del tavolo e seno del fiume, per cui la radio lo vietava nei comunicati. A parte il confetto Falqui, che è un purgante. Basta la parola, infatti. Sì, basta la parola, è vero, esatto. Forse avremo voglia di sentirlo anche più avanti. Ma l'ultima parte della pubblicità, per 20 secondi tu vedi questa farmacista che consegna continuamente. Ma lì era lo sfogo degli ultimi 30 secondi, dove sicuramente il cliente avrà detto voglio vedere il mio prodotto. Ecco, gli elettrodomestici sono stati protagonisti decisamente dei caroselli, perché era il boom degli anni 60, per cui era lo status symbol e doveva essere venduto, era una novità assoluta. Questo era Philco. Per esempio, che quindi guardava al futuro, si parlava già di elettronica, lavatrici, televisori, eccetera, ce n'erano da riempire le case perché erano vuote di elettrodomestici, non come adesso. E poi rendere finalmente la donna libera, perché era la donna quella che faceva tutto. Esatto. Sì. Non lavorava fuori, ma lavorava in casa tanto, faticava e doveva dargli una mano con gli elettrodomestici. Esatto. Stando comunque in casa a guardarli, perché poi all'inizio a far niente. Il riposo del guerriero. Continuando a parlare di caroselli, Michele, ascolta bene, perché secondo me tu riconosci questa parodia. Dal mare in tempesta son giunto fra voi, in cima a un gommone con troppi di noi, in cerca di lei che vive distante, la chiamano Dante e fa la badante. Mi butto nell'acqua ma vengo arrestato, c'è un nuovo immigrato e di nome Farrato. Son chiuso qui in cella ma porto pazienza, di certo è più bella del centro accoglienza, ma penso e ripenso con gran nostalgia a Dante l'amata e al foglio di via. Sicuro gli sbirri l'han già preparato, ritornerà a casa quel servo di Rato. Devo dire che Arato va malissimo, perché la storia poi prosegue, sì, alla fine va in galera, male. Poi finisce direi male. Davide Calabrese, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. Ciao. Allora, Davide è uno dei 5 Oblivion al Teatro Manzoni a Milano dal 4 al 24 aprile con il sussidiario 2.0, Oblivion Show 2.0, e voi avete anche una parodia del Carosello, perché so che tu sei un grande appassionato. Sì, è vero. Noi, quella parodia del Carosello, che appunto si chiama Rato l'immigrato, non c'è nel nostro spettacolo, ma c'è su YouTube e fa parte di... è uno dei nostri cavalli di battaglia, insomma, ed è un omaggio, come avete probabilmente già detto, a Gringo, il personaggio della carne montana che va sempre in lotta con Black Jack nel selvaggio West. Tra l'altro anche voi avete usato lo stratagemma di avere una rima giusta con la parola sbagliata, e dicendo che sarebbe sbagliato, ma avete dovuto cambiarla per quel motivo. È esattamente quello che succede nel Carosello. E tu sei molto legato al Carosello, perché sei così vecchio, Davide, oppure per qualche altro motivo? Io sono un ancien prodigio, nel senso, ne ho 34, ma sono legato al Carosello perché mi piace molto. Noi come Oblivion facciamo sempre esercizi di su robe passate, quindi il Carosello ci ha appassionato proprio, siamo ancorati a quella comicità un po' del Quartetto Cetra, quindi le loro parodie, e quindi ovviamente anche il Carosello. In questo caso abbiamo scelto Vigo, che era scritto dal grande Alfredo Danti, e quindi abbiamo fatto uguale, proprio l'esercizio di stile, solo con le tematiche di oggi, comprensivo anche del codino che non doveva superare i 35. È vero, perché voi pubblicizzate alla fine un prodotto, non voglio svelare agli ascoltatori di quale prodotto si tratta, andate poi sulla nostra pagina di Facebook Riposo del Guerriero o su radio24.it, lì ci sarà il link al video e così vedrete il prodotto pubblicizzato, tra l'altro a colori diventa alla fine la pubblicità. Sì, è vero. E dura 30 secondi esattamente come nel passato, 2 minuti e mezzo. Totale, sono stati rigorosissimi, davvero, come lo sono in generale. Tutto. Cosa vedremo nel vostro sussidiario? Nel nostro sussidiario affronteremo appunto la storia, la geografia, la musica, la matematica, affrontiamo come un sussidiario che si rispetti tutte le tematiche scolastiche, insomma. La cosa più divertente è che alla fine del nostro spettacolo i giovani appassionati delle nostre parodie ci chiedono: ma che cos'è un sussidiario? Perché effettivamente è passato di moda, e quindi non l'abbiamo scoperto dopo, e quindi diventa un titolo un po' fantascientifico che ai giovani piace, anche ignorando il significato della parola. Ecco, quindi lo scoprirete poi andando a vedere ovviamente lo spettacolo. Senti, dovendo fare la parodia di un altro Carosello, cosa sceglieresti, Davide? Allora, molto interessante. A me del Carosello piacciono molto i tormentoni, quindi come Elio ha preso in giro quello del Cinar, sì. Rifacendo poi la pubblicità del Cinar, a me piace molto, c'era un tormentone che faceva Walter Chiari con lo yoga, che era molto bello, o se no rifarei sicuramente la linea. Ne parleremo oggi più tardi con un nostro ospite che ne ha fatto la musica, che tutti possono chiaramente ricordare anche riascoltandola molto volentieri. Grazie Davide Calabrese, salutami tutti gli altri 4 e poi certo. Ci vediamo a teatro. Buona domenica e buona Pasqua. Grazie mille, buona domenica e buona Pasqua. A proposito di personaggi, ce n'è un altro, Michele Tosi, che insomma sempre di Armando Testa, legato in qualche modo al pianeta Papalla. Sì, però appunto. È vero che si assomigliano, gli occhi sono uguali. Eccolo qua. Carmencita, dove sta? Oh, si calmi, sono qua. Carmencita, qui impiegata. Da 3 mesi l'ho cercata. Ma perché, oh caballero? Lei per me è un forestiero. Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via. Pazzo, L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista. Amore, quell'uomo son mi. Oh, yeah, yeah, yeah. Non devi cantare, no, però puoi, se vuoi, anche no, perché no, ce ne sono talmente tanti di Gingo. Caballero, che cos'è per te da un punto di vista del creativo? Caballero, che cos'è? È un mito perché riuscire a far ridere ancora adesso, perché sentendolo è veramente bellissimo, avere la possibilità di avere ancora una volta l'attinenza, perché comunque arrivare al caffè dal caldo West eccetera, cioè, è meraviglioso, ed è un'icona, è sicuramente un'icona del Carosello come poche, perché appunto mi ripeto, ma ancora una volta, il fatto di inventare di sana pianta un personaggio e non affidarsi alla comodità di usare un testimonial è un lavoro concettuale di strategia meravigliosa per poi riuscire a fare spettacolo. Quindi secondo me è mitico anche per quello. Perché la forza era comunque fare spettacolo, alla fine bisognava... Sì, era obbligatorio, sì, fare spettacolo, era l'unico motivo per guai, cui venivano i professori regalati. Occulti non, sì, potevano essere, no, visti, venivano appunto regalati 30 secondi di commerciale, di parte commerciale, in cambio di 2 minuti di spettacolo, e molti hanno fatto vero spettacolo lì. E tantissimi, anche perché appunto, come diciamo, tantissimi sono attori, anzi, sì, tutti sono attori, qualcuno anche un grande, certo, attore. E a proposito dei linguaggi usati e del poco politically correct, volevo far sentire questo momento. Mi scusi, signor Scotti, se mi sono permesso di intervenire. Dica, dica. Io, povero negro, ma io sapere cosa volere dire torrido. Bravo, Bongo, bravo. Torrido volere dire caldo, caldissimo. Infatti si dice del clima delle nostre parti che è un clima torrido. Molto bene. Oh, finalmente l'abbiamo saputo che cosa vuole dire torrido. Oh, cioè torrido. Oh, ma ce n'è voluto, eh? Tutto questo però può capitarci quando sentiamo una parola poco usata. Ma quando sentiamo Falqui, basta la parola. Eccolo qua, questo era Tino Scotti. Allora, lui addirittura era dipinto, l'altro attore era dipinto proprio di nero. Con la vernice. Sì, e parlano come la mami del primo doppiaggio di Via col Vento. Adesso il doppiaggio, sì, è stato cambiato e lei non parla più così, ecco, giustamente. Cioè, per fortuna. Però insomma non destava scalpore, anche la parola negra era normalissima, sì, anche il nome non era assolutamente dispregiativo. Bongo. Poi si chiama, attenzione, ma sì, faceva parte un po' dell'avanspettacolo dei tempi, per cui secondo me era tutto più leggero, meno preso in considerazione su chissà quali. Quindi siamo un po' più sovrastrutturati in questo senso oggi. Eh sì, io temo di sì. Cioè abbiamo l'operatore ecologico, perché sì, non si può spazzino. Dire spazzino, perché sì. Chissà perché poi. No, è vero, sono una serie di protezioni che secondo me non fanno altro che acuire invece alcuni, sì, problemi. Sì, perché diventa un tabù, non potendolo, sì, dire, poi diventa, esatto, un tabù, e uno dice non lo posso dire, quindi è qualcosa, sì, di brutto sicuramente. Come tutti i divieti, a parte quelli clamorosi, ovviamente, ma però stiamo, giusti, parlando di cose che non erano vissute con cattiveria, ovviamente, però... Ecco, quindi questa forse è la cosa che si è persa alla fine, cioè questa leggerezza che c'era invece nei caroselli. Sì, sì, c'era la spensieratezza nel carosello, cosa che adesso, ahimè, per diversi tanti motivi non c'è più, però preoccupazione di riempire i 30 secondi in maniera occulta. Facciamo un salto prima del GR e facciamo un salto nel presente, Michele. Hai parlato di spensieratezza, sì. Ormai è un momento in cui i film, le serie televisive non è che debbano avere per forza il bel finale. Il bel finale adesso non si usa, non è più di moda, diciamo così. È di moda a finire male, non un po' tragico. Più no, contenti. Non c'è più questa idea. Perché si rispettano un po' i tempi. Nella pubblicità, la famiglia ancora felice del mattino, dove tutto va bene, esiste, deve ancora esistere? Dipende, perché vendiamo, si vendono sogni, dipende dal prodotto e quindi dipende dal target. Ci sono secondo me prodotti con un target di riferimento dove è necessario avere ancora questi riferimenti, perché è il bel modo di pensare, di far vedere la famiglia. E le casalinghe sono sempre di un certo tipo, ovviamente i tempi stanno cambiando per fortuna, e questo target sta invecchiando e c'è una particolare attenzione a delle cose un pochino più trasgressive, più moderne sicuramente, però nel Mulino Bianco siamo ancora con i bambinetti biondi, le galline belle, pettinate, i testimonial. Le uova perfette. Le uova perfette che non escono. No, sono già pronte, sono già confezionate, esatto. Anzi no, lì sul, sì, vicino, sì, alla farina. Esatto, per cui questi mondi esistono ancora per certi prodotti, che non si può trasgredire. Perché si ha ancora voglia di sognare, insomma. Sì. Almeno nella pubblicità. Sì, sì, serve un po' di sogno. Un po' come era nel Carosello, no? Le persone magari non potevano permettersi, senza magari, non potevano permettersi di comprare molto, però insomma il fatto di poterle vedere. E in qualche modo pensare che un giorno avrebbero potuto far parte della loro famiglia, della loro casa, quelle cose, sì, rendeva più felici. Era un sogno, anche perché dopo Carosello si andava a dormire, per cui era quello che creava i sogni. Che ti rimanevano esatto, lì così. Tra i personaggi costruiti ce n'era un altro particolarmente interessante, perché si raccontavano dei gialli. L'infallibile ispettore Rock, con Cesare Polacco e Giuliano Isidori in I gioielli della Maharani. Ispettore, lei mi deve spiegare. Signori, calma. You can keep a safe access. Ispettore, nella mia qualità di presidente dell'associazione rapporti... Ecco, erano dei veri racconti questi. Si risolvevano in due minuti e lui trovava il colpevole. È un cameo meraviglioso di sceneggiatura, perché in due minuti c'era il problema, la soluzione, il colpevole, la risoluzione. Cioè c'era tutto, con in più la costruzione dei personaggi, quindi... un piccolo sceneggiato. E il grande esercizio di stile da parte dello sceneggiatore era il legame con il prodotto, perché c'era lì veniva fatto frase. Tavolino, ovviamente, sì. Si pensava prima di fare scrivere la natura stessa del personaggio, l'ambientazione, eccetera, per cui tutto doveva vertere su questa cosa per arrivare al prodotto. Però era un grandissimo esercizio di stile. Io ho avuto anche modo di conoscere dei registi che fecero Carosello ai loro tempi, e per economizzare la produzione, una volta in mano il tema, il trattamento, eccetera, si passeggiava per Cinecittà per vedere quali scenografie erano pronte o dismesse da altre produzioni, per poterle prendere e girare il Carosello. Ho letto da qualche parte che ai tempi era il 55% della produzione cinematografica italiana era per Carosello, quindi... incredibile. Un indotto pazzesco. Io prima di lasciare al GR volevo ricordare come finivano le avventure dell'ispettore Rock. Sì, lui non sbagliava mai, trovava sempre tutti i colpevoli, ma un errore l'aveva fatto anche lui. Non usava la brillantina, toglieva il cappello ed era completamente pelato. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica e buona Pasqua da Stefano Gallarini, Riposo del Guerriero, che oggi ha come argomento qualcosa di molto famoso. Senti Michele Tosi, come più orchestrare? Questa è la sigla del 74, sì, se non mi sbaglio. Quindi la rispetto all'inizio. Più famosa, sì, in i siparietti che si aprono. Parliamo, sì, proprio del Carosello, stiamo parlando con tanti ospiti di questo, delle storie che si dovevano costruire. Ripetiamo, tutte diverse, non, sì, potevano mai essere replicate, ma non c'era tipo la replica, no, perché il Carosello andava in onda la sera, non c'era di giorno poi la replica del giorno prima. No, veniva messa in onda alle 8:30, non mi ricordo più, un'ora del genere. L'unica cosa che veniva replicata erano gli ultimi 30 secondi, che erano quelli di prodotto, ma la parte spettacolare, che doveva essere spettacolo puro, doveva essere sempre diversa. E poi i vari inserzionisti non avevano la possibilità di andare in onda tutti i giorni, perché c'era una coda incredibile, per cui lo stesso inserzionista poteva avere forse una o due passaggi alla settimana, se andava bene. Era molto costoso, sia la produzione che gli spazi. Vediamo se ti ricordi questo. Merende a scelta! Olè! Mamma, ma tu sei gli incendi, arrivato l'indondero, l'indondero, l'indondero, è arrivato il merendero e il dindondero è tutto ero. E tutti nero per via delle rime, per far... entrare nel cervello. Miguel Sommi. Appunto tu, esatto. Sì, io ho usato anche l'icona sulla mia cosa di Facebook. Perché... Ma quanto ci sono entrate nella testa queste... È la forza un po' della ripetizione, ma del jingle sicuramente, perché i jingle hanno fatto molto Carosello, al di là dei personaggi famosi, al di là delle attrici, dei grandi sceneggiatori, quello che poi è rimasto sono spessissimo i jingle, che è ancora una cosa che oggi resta, anche oggi, per chi li usa, per chi li usa adesso, non tutti ci si vergogna un po' di più adesso, tutti vergogna di assolutamente però devo dire che molti clienti trovano che la pubblicità abbia preso un'aura un pochino più seria, quindi più è colta. Stupido il jingle, è stupida la rima, è stupido il jingle, ma perché deve essere stupida la rima? Nel senso che Gianni Rodari, voglio dire, che non ha scritto niente di stupido. Carducci, sì. Esatto. E scrivono in rima, e quindi... Non lo so perché, però è sempre stata denigrata. Ce n'è un'altra, che a me piaceva molto. Don Bairo Luvamaro presenta Le avventure di Cimabue. Oggi fu il giorno di letizia per lo convento e per li frati tutti, che ci ritrovammo avante lo cancello per rassettare tutto l'orticello. Si fece avanti lo frate Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due. Allora, intanto come era scritto? Lo cancello, lo frate. Sì, boccaccesca. Per cui già lì, sì, già sì. Lì bisogna costruire le rime poi rispettare una regola. A mia memoria, un po' quello che succede ancora adesso, molti prodotti si impossessavano di un'area, cioè il western è mio, allora io faccio la parodia, che ne so, del futuro, come abbiamo sentito prima, piuttosto che è libero frati... e conventi, vabbè, a parte che lì c'era anche il nome del prodotto. Però ognuno si prendeva una fettina di mondo. Sì, perché altrimenti poi insomma c'erano sempre scontrati. Problemi di accavallamento, quindi bisognava fare qualcosa di nuovo per qualcosa forza. Di originale. In questo caso era Cimabue, ogni cosa, fai una cosa, ne sbagli due. Lui rispondeva, ma che cagnara, sbagliando si impara. Esatto. C'era la morale alla fine, non te lo ricordavi, sì. C'era la morale alla fine della storia, però un po' mancano queste cose. Io adesso leggevo, guardando poi e ripescando i filmati, a parte che c'è una collana che è uscita da poco e sta ancora uscendo in edicola con Corriere della Sera, e c'è un po' questo ritorno, ma molti commenti sono di persone che Carosello non hanno mai visto, la stanno guardando soltanto con YouTube e con internet, però lo stanno riscoprendo e apprezzando, quindi voglio capire dov'è il segreto, perché vabbè, noi l'abbiamo vissuto e quindi abbiamo dei ricordi legati a quel periodo, però oggi chi non ha ricordi in questo senso, cos'è che ci trova di così interessante? Perché in qualche modo lo è davvero, a quanto pare. Bah, un po' l'effetto nostalgia che si c'è, diceva... anche per chi non l'ha vissuto. Sì, dice, io credo di sì. Come i mitici anni 80, i mitici canaglia, anni 70, i mitici anni 90, c'è tutto qualcosa di mitico, basta che sia passato, figuriamoci Carosello. C'erano anche dei personaggi per me insopportabili, davvero insopportabili, e una era questa. Bertolini presenta Le avventure di Maria Rosa. L'orsacchiotto celestino, poverino, poverino, mentre andava nel boschetto, poveretto, poveretto, cadde dentro la palude ed affonda sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu. Cadde dentro la palude ed affonda sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu. E che palle, no, voglio dire, no, perché, vabbè, non me ne voglia la marca, però, no, però qui la vita è sempre rosa, questo solo personaggio quando ci sei tu, tutto il resto è altro colore. Quindi questi personaggi che si piacevano probabilmente, io non li trovavo molto, cioè, Calimero almeno è il contrario, è molto più no? trasversale. Sì. Calimero qui non so a chi potesse essere riferito, però. Vabbè, perché si fanno le cose usando poi un prodotto particolare, diventi particolarmente bravo, però è vero che questo personaggio c'entrava tutto, anche Cimabue, no? Che sbagliava le cose, ne faceva una e sbagliava due, perdente che si riscatta, però perché nell'errore poi riusciva sempre a risolvere il problema. Esatto. Cimabue invece questi personaggi così insomma, però troppo, come dicevi, perfetti. Tu era perfetto, ma in effetti, come dicevi, bisognava creare qualcosa di diverso dagli altri, perché sennò poi ci sono le famiglie anche, ne avremo da ascoltare. E ci sono invece personaggi particolarmente simpatici, anche un po' demenziali, come loro due. Doc presenta Tognazzi, Vianello, Mondaini. E allora come va, Gregorio? Come può andare? Mal va. Da gregari, guarda qua chi mi ha dato. Mezzi guanti mi ha dato invece dei guanti interi. Scarpe strette. Mi ha detto che col calo de forma. Lo credo che col calo. Go quattro calichi sulla scarpa, go. Sì, va bene, ma la corsa com'è andata? Ma anche la corsa, poveretto, come la doveva andare? Mi ha detto al culo. Commissario unico. E mi aveva detto di tirare il capitano. E tu hai tirato? Mico tira il capitano, solo che mi sono confuso. Lo tira il capitano dell'altra squadra. Ma quando te ne sei accorto hai smesso? Ecco, Tognazzi e Vianello erano assolutamente demenziali. Ad esempio, sì. Lui, i guanti sono quelli appunto senza dita, perché quelli si usano. Sì. E Tognazzi si lamenta dicendo: guarda, me li hanno dati senza le dita. E quindi, e poi da lì le battute erano anche semplici. È vero, molto avanspettacolo. E beh, questo è stato preso a piene mani dal spettacolo, qui prendere in prestito proprio un siparietto, questo è veramente un siparietto, dove io adesso non mi ricordo come arrivavano al prodotto, però probabilmente con un altro salto demenziale. Come le canzoni di Mina, arrivavano al prodotto e assolutamente non c'entravano nulla con la canzone che però se c'era ricordo prima, bene c'era addirittura un'introduzione, diceva... Sì, il prodotto presenta. Ecco, questo era un trucco. Era un altro meccanismo concesso forse qualche anno dopo rispetto all'inizio di Carosello. È stato un trucco di molti, ovvero come in questo caso si apre il carosello con il prodotto che presenta qualcosa, quindi a questo punto si è completamente sganciati dal dover. Esatto, sì. Quindi anche meno memorabile da un certo punto di vista. C'era grande meno esercizio di stile. Sì. Per quanto riguarda le famiglie, io voglio farti sentire questa. Buongiorno. Buongiorno. Le interessa uno strumento? Chitarra. Vuole una chitarra da canto o una chitarra basso? Parlando di una chitarra dovrebbe dire bassa, non basso. Ma veramente io dicevo basso perché fa la parte del basso. Comunque vuole una chitarra da canto, vero? Lei ha un complesso? Tutt'altro. Io sono tranquillo, sereno, rispetto tutti e non invidio nessuno. Lui ma è sofferto di complessi. Adesso qui c'è il doppio senso. Esatto. Lui è Gian Piero Albertini, no, con tutta la famiglia che non proferisce verbo, no, parla solo e non lui, sorride mai. Mai, sono serissimi e saranno soddisfatti solo quando andranno a comprare un certo tipo di elettrodomestico, perché quello li soddisfa. Perché loro erano la famiglia degli incontentabili. Eccoli là. Qua c'era Gianfranco D'Angelo che faceva il commesso del negozio e quindi lui faceva l'attore cabarettista ed è già molto bravo, lo si vede perfettamente. Insomma, questi sono i siparietti che si ricordano queste famiglie, queste costruzioni e però vedi che gli incontentabili te lo ricordano. Molto sì, certo. Bene. Tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti sul traffico, avremo un'altra persona che tu conosci bene, Michele Tosi, e che gli ascoltatori forse non conoscono di nome, ma conoscono molto bene le cose che ha composto. Il riposo del guerriero. Abbiamo parlato di jingle e di musiche, di colonne sonore del Carosello e si è materializzato. E Franco Godi, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, ciao. E buona Pasqua. Allora, Franco Godi, ormai produttore musicale, però quante ne hai scritte? Ah, ma di cose di jingle? Sì, di musica. Sì, di musiche, di jingle. Beh, io alla SIAE ho un elenco di 2500, però ovviamente sono registrati i provini, ma sono comunque jingle tantissimi. No, ma è che il fatto è questo, Franco, che noi ci ricordiamo tutti, è quello. Cioè, forse, fa piacere. Non tutti i 2000, forse, però insomma, questo per esempio, mia mamma se lo ricorda sicuro, guarda, ma non perché me lo diceva continuamente. Ecco, adesso tu mi devi dire, Franco, come ti è venuta in mente questa cosa? Tutto bene mi va? La la la la. Innanzitutto chiarisco che i testi, le parole, io non normalmente lavoravo su dei concetti che appunto i copyright scrivevano, poi io le mettevo in musica, ma riferendosi a questo jingle in particolare, visto che esisteva Carosello, la musica era una cosa un po' più estesa di un jingle che appunto si esauriva in 30 secondi, in 15 o quello che era, per cui diciamo c'era un po' più spazio per fare una vera e propria propria canzone, per cui questi 100 secondi di spettacolo permettevano anche ai musicisti di avere uno spazio più ampio per fare della musica. Ecco, poi dopo alla fine dei 100 secondi c'erano i 30 secondi di pubblicità. Ecco, tra l'altro erano veramente delle colonne sonore, chiamiamole così. Sì. Ecco, in particolare, per esempio, questa è legata a un personaggio molto famoso. Sì. Franco, sei tu che fai Badu Badu o c'era un cantante? No. Io di solito facevo perché non c'erano i computer all'epoca, allora facevo sempre provini voce. Esatto, per quello che te lo chiedevo. Magari sai, quando dici ah, va bene questa voce qui, è della tua, no? Ecco. Ma spesse volte hanno tenuto la mia in sogni d'oro, no? Io lo so che questa notte sognerò. Perché io facevo il provino, poi prendevo un cantante per eseguire per finalizzare questa cosa, e poi il cliente, l'agenzia, così optavano più per la soluzione che da autorale piuttosto che dal cantante vero. E allora in tanti giro mi sono ritrovato in Tuborg, in questo, in altro, adesso non mi ricordo. Vabbè, tra l'altro, ecco, Badu Badu è la colonna sonora, per quello parlavo di colonna sonora, della linea, la linea Lagostina, era questa linea che si muoveva, questo cartone animato fatto semplicemente con una linea. Ve l'avrete visto tutti in mille salse, anche perché lo si guarda ancora molto molto volentieri. Ecco Franco, di solito tu andavi con tante proposte o normalmente ne facevi una, due al massimo e poi andavano bene e piacevano? No, io sono sempre, perché la cosa che credo mi abbia distinto nel panorama dei musicisti che lavoravano per la pubblicità è quella che io facevo la mia musica, per cui se al cliente non piaceva una mia proposta ne facevo un'altra. Era difficile che io cambiassi per accontentare il cliente, perché non lo trovavo nel suo interesse, in quanto cercavo di lasciare un'autonomia creativa, fra virgolette artistica, alla cosa, senza poi ovviamente la declinavo secondo le esigenze del filmato o le esigenze che poteva avere il cliente, ma non cambiavo mai, non adattavo mai le cose, per cui di solito io facevo appunto una proposta. Per esempio mi ricordo Tanti Baci per Ugina, che era stata proposta per non mi ricordo a quale cliente, però non era piaciuta e me la sono tenuta integra, poi l'ho riproposta quando è capitato l'occasione con Perugina ed è andata così come io l'avevo pensato. Mai buttare via le cose che si creano, quindi tenere sempre nel cassetto, perché poi può andare. Oggi diceva Michele Tosi che i clienti si sentono un po' stupidi a costruire i jingle. Tu è vero che non ne scrivi adesso, sei diventato un produttore, Franco Godi, ma da ascoltatore comunque sarai attento a quello che succede nel mondo della pubblicità. Sì. Li considereresti stupidi oggi i jingle? Cioè passati di moda oppure no? Assolutamente, anzi io mi aspetto sempre, siccome sono molto vitale sul piano della creazione musicale, anche se appunto a livello produttore e discografico, sì. Ma se qualcuno mi commissionasse un jingle oggi sicuramente mi troverebbe molto attivo, ecco, creativamente, perché credo che il jingle sia un po' come la torta della nonna, no? Che deve avere, per essere buona, deve avere degli ingredienti che in qualche modo poi fanno una cosa che piace, ecco. Per cui il jingle non lo trovo assolutamente oggi sento molti jingle, alcuni carini, alcuni un po' meno. Mi sembra piuttosto che non ci sia stato ancora nel panorama musicale nuovo, diciamo, degli autori qualcuno che un po' come me, io mi sono dedicato a quello e basta, nel senso, invece che fare la musica per un cantante, una canzone, scrivere una canzone, io la tenevo per me e la abbinavo a un prodotto. Quindi capisci cosa voglio dire? Sì, cioè, perfettamente. Ecco. Il professionismo cosa, si chiama. Questa cosa ha permesso anche a distanza di tempo di far sì che certe cose siano ancora da fede branca, nell'immaginario della gente, proprio perché non erano nate solo a servizio di una comunicazione pubblicitaria che era basilare, ma io facevo, mi tenevo le mie musiche che avevano una loro autonomia, diciamo, artistica, e poi le abbinavo con l'agenzia, con il copyright, al prodotto a cui erano destinate. Ecco, credo io ti avrei chiesto la domanda scontata, cioè se c'è, tu hai parlato di ricetta della nonna, l'ingrediente segreto, in realtà l'ingrediente segreto è proprio questo alla fine, cioè costruire qualche cosa che non sia legato esclusivamente al discorso pubblicitario del jingle, ma che sia qualcosa di una musica nel vero senso della parola, come dicevo prima, una colonna sonora. Sì, infatti. manca sì. la capacità di comprendere quanto professionismo ci stia dietro un lavoro del genere, perché infatti io dicevo è stupido, nel senso che purtroppo si sentono stupidi ora i clienti, ma non c'è niente di stupido, no, ma anzi, No, ma sai che cosa, per esempio la mia, il mio atteggiamento verso la pubblicità non era, appunto, non è stato, tra virgolette, servile, perché era di dare un servizio, quindi di fare delle cose che avessero un valore aggiunto. E secondo me il valore aggiunto ce l'avevano in quanto esisteva, cioè veniva fatta una musica, ripeto, con una sua fisionomia precisa come musica, e poi era l'abbinamento, quindi il professionismo stava più nel discorso di abbinarla in maniera giusta e inequivocabile a un prodotto o una comunicazione, a un claim, a una cosa, capisci? Quindi io dal punto di vista musicale mi sento integro, dal punto di vista professionale mi sento professionista che capiva se una cosa poteva andare bene per un prodotto piuttosto che un altro, o una formula, diciamo, per un prodotto piuttosto che un altro. E lo sei sicuramente, insomma, concordi con te, anche perché sai che siamo su quella linea, insomma, sei lo sai, sì. Michele, ci conosci. Altro che. E quindi Franco Godi, grazie del tuo tempo e ancora buona Pasqua. Io ti lascio con una delle tue canzoni assolutamente più famosa. A presto, ciao. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Franco. Tanti baci per un gira. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Anche perché poi ti voglio di ballare, di muovere, samba, samba. Quante versioni hai tu di questa canzone? Ma almeno 7-8 credo, perché negli anni la fortuna anche di mantenere un jingle è quella di costruire marca, impegno e tutto quello. E però si evolve nei tempi. Quando c'è una melodia come quella che è capace di scrivere questo signore che abbiamo appena sentito, la melodia si permette di essere rock, samba, reggae, eccetera, eccetera, diventa jazz, diventa tutto, e questa cosa crea una continuità meravigliosa. Ecco, devo dire che appunto, se adesso facessi l'elenco delle cose che Franco Godi ha scritto, voi ascoltatori riconoscereste tutte le canzoni, perché non so, c'è qualcosa, non è così facile però costruire dei jingle che rimangano nella testa, è proprio una questione musicale, bisogna avere la musica prima di ogni cosa. Al di là dei 2 minuti del carosello, lui ha questa capacità, cioè, non aveva, ha questa capacità di essere sintetico, quindi avere... Ma tu quando hai lavorato con lui, arrivavano prima le parole e dopo lui ci scostruiva la musica su, o arrivava la musica e tu poi hai fatto le parole? No, lui dopo voleva vedere prima le parole. Ah, sì, e la metrica come facevi a rispettarlo? Non sapevo. Poi si aggiustava, ci si sedeva al pianoforte con lui, si aggiustava. Quindi tu hai scritto Tubor, solo tu mi piaci sempre più. Beh, questo con Maurizio Dadda, sì, esatto, è una cosa meravigliosa. E poi è uscito quello che ancora, ancora si ricorda. Il riposo del guerriero. Sarete forse in ballo con il pranzo di Pasqua, ma qualcuno magari è ancora a letto in questo momento, vicino al letto, quindi preparatevi a saltare sul materasso, perché adesso viene voglia davvero di farlo. Bibidi bodi bu. Bibidi bodi bu, bidi bodi bu, bidi bodi ye, bidi bodi bu, bidi bodi ye, bidi bodi bu. Non so se Franco Godi quando ha composto, perché è suo anche questo, ma tanto qualunque cosa io metto in onda è suo, Godi. Ecco. E non so se stava saltando sul materasso. Credo di sì, che io credo di sì, con un pigiama a righe, anche perché l'attinenza, qua parlavamo prima dell'attinenza e la meraviglia di questi spettacoli prima dei 30 secondi pubblicitari è creare una camera da letto dove c'è una serie di bambini che fanno delle trasgressioni, ultima delle quali è quella di saltare sul letto, ma prima giravano seduti col passo uno, montavano, smontavano, disegnavano, costruivano cose, eccetera, eccetera. Poi improvvisamente i genitori dicevano: ma che silenzio, stanno dormendo? Aprivano e invece stavano saltando su un letto e la rete che non faceva cigolii, quindi... Meraviglia. Oggi lo si racconterebbe in un altro modo. Credo la rete. Sì. Ecco, sì. Sì, poi i materassi questo... vengono venduti anche in un altro modo, meno sì, creativo, secondo esatto, me. Sì. Più semplice, se vuoi. Sì, ecco, più semplice. Come dici un po' più terra terra. Esatto, quindi come vedi ci siamo abbassati da questo punto. L'asticella si è un po' abbassata. Sì. Purtroppo, Luca Bertuzzi. Buona domenica e buona Pasqua. Anche a te, tra i curatori della mostra Carosello, siamo a Milano fino a domenica 14 aprile presso Wow, lo spazio fumetto. È una mostra che va avanti da settimane, da mesi, perché ogni settimana credo che un po' cambi l'argomento, cioè sempre il Carosello è però visto attraverso gli occhi di qualcosa, giusto? Esatto, diciamo la mostra parla di Carosello focalizzandosi soprattutto sull'animazione, infatti il titolo è La fabbrica di Carosello, proprio perché ripercorriamo i vari studi di animazione che hanno lavorato a questo programma televisivo nei suoi 20 anni e ovviamente lo facciamo attraverso i personaggi più conosciuti che sono stati creati per Carosello o che su Carosello sono passati, anche se provenivano magari dal fumetto o da altre serie animate come, non so, ad esempio Cocco Bill piuttosto che Gli Antenati. Ci siamo dimenticati di Cocco Bill, è vero che c'era anche lui. Luca, scusami, quanti anni hai tu, no, per curiosità? 30, quindi non me lo sono visto in diretta. Ecco, allora, vogliamo capire... In replica. Allora, no, perché da capire questo, la Rai pare che voglia ricominciare a fare, a trasmettere il Carosello in prima serata, credo, su Rai 1. Poi, sì, al Future Film Festival di Bologna, che ci sarà, di cui abbiamo parlato, ci si parlerà di Calimero. Voi al Wow state parlando di Carosello. Perché? Sì. No, voglio capire perché. Credo perché sia un programma che riesce a essere apprezzato ovviamente in modo particolare da chi l'ha potuto vedere di persona all'epoca, ma che comunque ha qualcosa da dire anche agli spettatori di adesso, anche a chi non l'aveva potuto guardare allora, come i bambini o comunque le persone più giovani, perché dei personaggi che sono stati inventati per Carosello sono entrati nell'immaginario collettivo, pensiamo ad esempio a Calimero, al traghetto Grisù, alla linea, per fare solo qualche nome, e godono ancora adesso di una, diciamo, di una bellezza che va al di là dello spot pubblicitario, che quindi permette di essere goduto anche senza, diciamo, pensare al fatto che sono nati per la pubblicità. Quindi in realtà sketch, ecco, funzionano anche visti come piccole opere d'arte, sì, come piccoli, è una forma, è una forma artistica vera e propria, e questa è la forza, sì, è tutto, esatto, qui, cioè la pubblicità anche... è l'ultima cosa, ecco. Esatto, anche perché poi in Carosello, a causa di una serie di regole che c'erano all'interno della RAI di quel periodo, non potevano essere nominati prodotti fino praticamente al codino finale, e gli episodi dovevano sempre essere diversi, quindi non venivano mai replicati, e questo quindi scatenava la fantasia di chi su Carosello lavorava. Certo, obbligava a costruire storie. Grazie Luca Bertuzzi, io voglio ricordare il sito, siamo al Wow Spazio Fumetto Milano, carosellomostra.blogspot.it per avere tutte le informazioni fino al 14 aprile. Ciao, buona domenica e buona Pasqua. Una sola cosa, è stata bene, giusto di una settimana. Grazie. Una settimana in più. A te, grazie. E dopo il riposo del Guerriero, di un'altra settimana ancora. per chiudere, abbiamo pochissimo tempo, ma ti chiedo, l'operazione di ritorno del Carosello, se mai dovesse essere, come la vedi? A me piacerebbe tanto, inevitabilmente sì, perché mi è sfuggito per pochi anni, nel senso, io ho cominciato a lavorare quando ormai era terminato, ma di pochissimo, e adesso mi piacerebbe tanto. Ecco, Michele Tosi voleva dire, mi è sfuggito per pochi anni dal punto di vista dell'autorato, cioè come copywriter, sì, perché l'ha visto e tutto. Come? No, scusami, non volevo essere, non provo a infierire. Ho una certa età. Sto scherzando, ovviamente. Grazie, auguri ancora. Auguri, ciao Michele. Grazie a voi. E a questo punto io voglio capire anche il nostro gastronauta cosa si ricorda del Carosello. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Che ricordi hai del Carosello? Ma ricordi un po' vinicoli, perché mi ricordo la prima cosa che mi viene in mente è Vecchia Romagna. Senti, no, ma io, cioè, tipo Petrus, che è l'amaro per, sì, l'uomo, sì, forte. C'erano tutte queste, le icone erano molto legate ai personaggi, alla persona, nel senso uomo, e quindi come uomo doveva essere forte, tenebroso. La donna era donna che cucinava, però era lì più libera, perché poteva fare qualunque cosa. Ma sai, quello che mi viene in mente è a quell'incrocio stradale Calindri, che famiglie, poveretto, cioè, passavano tutte quelle macchine, altro che Cinar. Sai che quando lui insomma, non voleva più che lo si, lo si paragonasse al carosello, così lo si associasse al carosello, voleva essere, insomma... E immagino, poveretto, perché si doveva liberare da questa gogna. Poi mi ricordo però una cosa molto particolare, perché è un personaggio che ho molto amato, sia come attore ma anche come mio direttore del primo giornale su cui ho scritto di gastronomia, Tognazzi. Con la panna, la famosa panna, Parmalat. Lui all'inizio era anche con Vianello, per cui facevano gli sketch all'inizio del carosello. Negroni, lui ha fatto anche Negroni. I Negroni, i Salumi, ha fatto tante cose. Stiamo facendo un sacco di pubblicità. Poi tanti prodotti in realtà non esistono più, altri invece hanno continuato a esistere. Beh, sai, questi che abbiamo citato più o meno magari hanno cambiato mano, hanno cambiato, diciamo, proprietà, però esistono ancora. Ma sai, non è che facciamo pubblicità, in questo momento stiamo parlando di ricordi a Marcord di tanti anni fa, insomma. Quindi sicuramente però il carosello rimane nella vita di tutti, perché poi tutti a Nanna, quindi sicuramente c'era questo il ricordo particolare che tutti hanno. Ecco, che poi nessuno andava a letto, cioè sì, no, però era, si diceva ai bambini sì, io andavo a letto, dopo il carosello dovevo andare a dormire, ma in realtà il carosello serviva soprattutto a pubblicizzare dei prodotti e a fare in modo di convincere le persone che fossero genuini. Parlo soprattutto ovviamente dei prodotti che avevano a che fare con la cucina, perché siccome si veniva dalla cucina fatta in casa e si passava invece a quella, insomma, di largo consumo, certo. Bisognava convincere che fossero prodotti genuini, esattamente come quelli fatti in casa. Ma guarda, il problema oggi è il contrario. È il contrario, cioè, perché oggi bisogna vedere che ci deve essere una pubblicità che da quelli, diciamo, cosiddetti di largo consumo ci fa tornare a casa, perché sembra questa la tendenza. E qui voglio vedere, però devo dire una cosa, sì, secondo me di allora, che se non altro questi sketch erano dei racconti, sì, non erano così, come posso dire, diretti come ce ne sono oggi alcuni che trovo molto volgari. Io anche credo che c'è stato un grande scadimento della pubblicità. Allora c'erano anche delle firme importanti che firmavano questi spot o d'altro. Oggi invece vedo molta volgarità su questo e vedo un no sense. Molte volte mi chiedo, ma che cacchio vuole dire? Cioè, ma perché ha fatto questa cosa? Perché molti si arrampicano sugli specchi, per magari comunicare un prodotto, e secondo me veramente rimango interdetto. E poi mi ricorda quello divertente, Carmen Sita, dai, sì, era troppo divertente quello. Tra l'altro ci sono tanti caffè, quello è uno, poi c'era anche il caffè Paulista, per esempio. Ne ho risentita una recentemente, dove a un certo punto loro parlano con tanti dialetti diversi e c'è anche un puerca vacca. Oggi tu non lo sentiresti mai in pubblicità una cosa del genere. Un no, puerca vacca non arriverebbe mai, sarebbe, sì, considerato addirittura volgare. O sbagliato? Beh, basta guardare molti spot, sono volgari senza che parlino. Quindi sicuramente non c'è bisogno di che dicano niente, anzi sono già troppo volgari così. Se dicessero anche qualcosa sarebbero veramente ripugnanti. Tornando a bomba, e per chiudere con te, secondo te oggi la pubblicità delle alimentari ancora deve convincere che il prodotto è uguale a quello fatto in casa? No, assolutamente, perché come ti dicevo ormai si torna indietro e quindi è inutile fare questa retrospettiva. Diciamo che il prodotto di largo consumo, con la crisi economica e anche un po' anche con i trend che stanno cambiando, secondo me ne risente notevolissimamente. Quindi dovrebbe il prodotto a largo consumo, se non altro, dare un messaggio di sicurezza. Perché oggi quello che manca nel prodotto alimentare è proprio quello, la sicurezza, diciamo, del processo produttivo. Sempre più ci sono scandali in questa direzione, per cui secondo me questa è la strada che dovrebbero scegliere. Perché ormai sappiamo che non è proprio come se fosse fatto in casa, insomma. Beh, assolutamente, ormai abbiamo sgamato, perché tutti tornano a farlo a casa e si accorgono quando lo vanno a assaggiare che così, c'è un po' di differenza. Perché tu dici invece puntare su tutta la filiera per capire che stai prendendo un prodotto genuino da quel punto di vista. Ma sai, genuino, sicuro, genuino, sicuro, secondo me è un aggettivo da cancellare. Cancelliamo. Io non ho detto, oggi più che altro è la sicurezza del processo produttivo, perché come ti dicevo lì c'è un grande controllo. E sinceramente devo dire che l'artigianato può controllare meno, ha meno mezzi. L'industria dovrebbe controllare molto di più, e guarda caso però molti scandali ultimi sono successi proprio in prodotti di largo consumo. Beh, credo che l'ultimo caso straordinario è questo della carne di cavallo. farlo. Sì. Veramente è inconcepibile che nel 2013 succedano ancora scandali di questo genere e non siano bloccati prima di arrivare sul mercato. Purtroppo succede e bisogna capire, anche perché meno male che poi sono addirittura le aziende stesse che a quel punto si fanno degli autocontrolli, e questo è già un bene, insomma, vuol dire che c'è attenzione. Sì, a questo una, punto mi permetti di vista. Una battuta? Sì. Speriamo che dentro le colombe non ci sia un pezzo di pollo. Vabbè, sempre volatile. A proposito, buona Pasqua, ciao, grazie. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Siamo pronti a giocare anche oggi con il carosello delle scatole, perché credo che davvero il nostro Andrea Ligabue ne abbia tantissime, qualche centinaio, forse di più, nella sua stanza riservata al gioco. Ciao Andrea. Ciao Stefano, sì, diciamo le scatole sono più di 1000, magari fossero sì. Solo qualche centinaio. Buona domenica a tutti. Ma dove metti 1000 scatole? Vabbè, comunque sì. Buona domenica e buona Pasqua a te. Allora, siccome l'argomento oggi è il carosello, hai pensato alla pubblicità? Perché anche sì, i giochi allora, devono essere pubblicizzati in qualche esatto. modo. Diciamo, ho pensato a due giochi che hanno avuto una campagna pubblicitaria di marketing molto particolare, due sì. giochi abbastanza recenti. E sono, uno si chiama Le leggende di Andor, che è un gioco che è uscito, pubblicato dalla Cosmos e poi in Italia da Giochi Uniti, in cui i giocatori sono degli avventurieri che devono esplorare questo mondo e risolvere delle missioni insieme. La cosa particolare è che di questo gioco era stato rivelato solo il titolo all'inizio e nient'altro, e ai giornalisti era stata mandata una lettera con scritto che era sparito uno scienziato e che dovevano andare a indagare, quindi i giornalisti sono stati coinvolti in un gioco per reperire notizie riguardo al gioco di Andor, su cui all'inizio non si sapeva niente, quindi dopo era stata creata una pagina Facebook ad hoc, un account di mail particolare, e indizio dopo indizio i giornalisti sono andati a scoprire, diciamo, le informazioni riguardo a questo gioco. Quindi diciamo un marketing, un modo pubblicitario molto originale per lanciare un gioco sul mercato. E un altro gioco che ha avuto un'altra campagna pubblicitaria secondo me molto interessante è stato Small World, che è un gioco ambientato in una ipotetica terra fantastica in cui 14 razze si scontrano diciamo per avere il predominio. È un gioco di strategia adatto a tutti, molto molto carino, e anche questo, il marketing diciamo di questo gioco, sono state presentate le razze una alla volta coinvolgendo il pubblico, e è stata fatta una votazione tra il pubblico su quale sarebbe stata la razza più apprezzata dai giocatori stessi man mano che venivano presentati, e tra i giocatori che avevano indovinato la terna delle razze più votate da tutto il popolo dei giocatori sono state estratte a sorte un certo numero di giocatori che hanno ricevuto il gioco come premio in omaggio. Quindi diciamo anche questo una maniera di fare marketing coinvolgendo la comunità dei giocatori, che quindi c'era il passaparola, diceva a me piacciono i nani, no a me piacciono di più gli elfi. Un bel modo per il gioco nel gioco, insomma. È vero che quando si parla di carosello, la frase che viene in mente a chi l'ha vissuto è: si guarda carosello e poi si va a nanna. E ci sono anche dei giochi che sono adatti per essere appunto giocati dopo la cena, durano poco e dopo si può andare tranquillamente a dormire. Sì, esatto, ci sono diversi giochi che hanno delle durate, diciamo, che stanno sui 15-20 minuti, che sono proprio adatti in quelle situazioni in cui un genitore dice, il bimbo dice facciamo l'ultima cosa, l'ultima partita prima di andare a letto, e si vuole evitare di andare per le lunghe. E di un paio avevo già accennato in trasmissioni passate, ma ne riparlo volentieri perché sono due giochi veramente divertenti, adatti a tutti, e sono Double, che è un gioco praticamente in cui ci sono delle carte e bisogna essere veloci a ritrovare, diciamo, quali oggetti compaiono su due carte, diciamo. Il gioco può essere giocato in varie modalità, la modalità più lunga, una partita dura 5 minuti, quindi è adattissimo per queste situazioni. Un altro gioco è Fantascatti. In Fantascatti i giocatori devono riuscire ad afferrare per primi uno dei 5 oggetti presenti sul tavolo indicato dalla carta che viene girata, oppure diciamo l'oggetto che non viene indicato dalla carta. quindi diciamo un gioco anche questo di abilità e di velocità, e una partita dura anche qua raramente più di 10-15 minuti. L'ultimo gioco di cui voglio parlarvi, che potete giocare prima di andare a dormire, è Olympic Arts. Olympic Arts è un gioco di carte in cui i giocatori devono utilizzare delle carte raffigurate con dei numeri, dei colori, in maniera diversa a seconda della disciplina olimpica che viene estratta. Cioè ogni turno viene girata una carta che rappresenta le regole del gioco e i giocatori dovranno giocare con quelle regole quella mano. Chi vince la mano guadagna una moneta d'oro, una medaglia d'oro, il secondo la medaglia d'argento e il terzo la medaglia di bronzo. Alla fine delle 9 mani, che sono le 9 discipline olimpiche di questo gioco, il giocatore che ha più medaglie d'oro vince la partita. Ecco, speriamo allora che magari uno di questi giochi si riesca a trovare dentro anche alle uova di Pasqua. Ancora auguri, buona domenica. Buona domenica e buona Pasqua a tutti. Reason Cole in Ains Nights Uso. Senti chi parla. Parlano i nostri ascoltatori anche oggi. Buona domenica, ciao Francesca Dragotto. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Fatemelo dire, la scaletta di oggi è veramente bella. Allora, apriamo di carosello, è vero, ma prima di aprire il siparietto del carosello con te, volevo così, avevo una curiosità che riguarda un messaggio arrivato la settimana scorsa, un sms alla puntata, dove si discuteva della parola alea, la fortuna, oppure alea. Come si dovrebbe dire? Come si deve dire? Punto di domanda. Improvvisiamo un SOS lingua. Sì, allora, facciamolo. È un latinismo, è alea. In latino c'è una piccolissima regola che dice che una vocale davanti a una vocale è breve, corripitur in latino. E quindi essendoci EA si va a vedere la quantità della penultima, che è breve, e conseguentemente non può che accentarsi alea. Tra l'altro il termine alea, dado, è noto a molti se non a tutti per la celeberrima espressione alea iacta est, ovvero il dado è stato tratto, pronunciata da Cesare nel 49 a.C. sulle sponde del Rubicone. La trafila che ha portato alea a indicare anche la fortuna, beh, la ricostruiamo tutti abbastanza facilmente, perché dal dado si è passato al gioco dei dadi, oggi sto invertendo sordo e sonore, e dal gioco dei dadi alla fortuna, al gioco dei dadi. E quindi fortuna è il punto di arrivo di una trafila che però ha alla base questo termine, che è appunto il termine concreto per la parola. Ecco, invece l'alea, quindi l'inversione dell'accento sull'altra lettera, è un'altra parola, deriva dal francese, significa una cosa completamente diversa. Sì, è una parola che tra l'altro conoscono poche persone, un prestito che l'italiano ha operato intorno, se non ricordo male, 12-13 secolo, che però è un omofono in italiano, cioè suona come la parola alea, ma non ha nulla a che vedere né col dado né con la fortuna, perché si tratta di un prestito che ha a che fare con il verbo aller del francese, che significa andare. Quindi alea, da aller del francese, sta per viale, luogo dove si cammina, quindi nulla a che vedere con fortuna o dadi. Ecco, allora abbiamo risolto questo piccolo quiz e adesso invece andiamo a raccontare da dove arriva la parola carosello. Beh sì, certo, ho deciso di contribuire con una piccola notazione etimologica alla bellissima puntata di oggi. Allora, la parola carosello la troviamo in italiano più o meno alla metà del 500, a seguito della dominazione spagnola. E, l'epicentro, il luogo a partire dal quale si è diffusa, sembra essere stato il napoletano, e il primo significato sembra essere stato quello di gioco condotto da cavalieri che nel momento in cui si esibivano in acrobazie si lanciavano delle palle di creta. Ora, per quanto riguarda il significato, si tratta della stessa radice che ritroviamo in caruso, carusazzo, carusieddu, termini che è in uso in tutta l'Italia meridionale, in particolar modo la Sicilia, per indicare il ragazzo. Andando ancora più però a scavare, troviamo una connessione con il verbo carusare, che indica l'atto di tagliare, rapare i capelli a zero, e questo ci fa pensare che il caruso fosse tale perché aveva i capelli rapati. Certo, aveva i capelli. Certo. E questo ci consente anche di spiegare un altro termine, questa volta del napoletano, o carusiel, che è un tipo di salvadanaio di creta avente forma per l'appunto di testa priva di capelli, di certo, testa rapata. Ma tu pensa. L'idea di testa però ci permette di risalire allo spagnolo, dove abbiamo cara, che potrebbe essere stato quindi la radice proprio alla base anche di caruso. Cara, che significa viso, ma anche per una figura retorica che consiste nell'indicare una parte per riferirsi al tutto, la sineddoche, la testa. La testa. Quindi, sì, sì, sì. quindi la testa potrebbe essere alla base del Caruso e poi alla base del anche del Carosello. Ora, la pratica del gioco cinquecentesco avrebbe favorito la determinazione del significato di festa militare, torneo, giostra. Ora, questo significato sarebbe stato preso in prestito dal francese per indicare a propria volta la giostra. Questo significato sarebbe ritornato in italiano due secoli dopo per rafforzare quello di giostra già presente, ma questa volta giostra usato per fare riferimento a quello che per noi oggi è la giostra, quindi dei cavalli o dei cocchi issati su pali di legno che venivano fatti muovere da appositi macchinari. L'idea della festa e della giostra potrebbe, questo lo dovrei chiedere appunto agli esperti, potrebbe anche spiegare la parte finale della prima delle sigle di Carosello, dove vediamo al termine dei vari sipari che si aprono due uomini abbigliati a mo' di paggi che sono intenti a sorreggere lo stendardo, l'insegna di Carosello. Ecco, ci sono anche i giocolieri comunque, nella prima immagine della prima sigla ci sono i giocolieri, gli acrobati ci sono, per cui comunque sia l'idea è quella del circo alla fine. Sì, quindi un recupero del significato con cui il termine è penetrato in italiano, esclusa la parte che ha a che fare più col mondo militare. L'italiano, se vogliamo chiudere appunto la notazione dei significati relativi a questo termine, annovera anche tra i significati di Carosello quello di movimento veloce, pittoresco di persone e oggetti, ma soprattutto di automobili. Immaginiamo i caroselli al termine dei mondiali, sì. O al termine sì, infatti. E, però appunto si tratta sempre del significato di giostra impiegato in senso un po' più in senso più esteso. E in questo senso però la testa si è completamente perduta poi, sì, quindi. Sì. Come spessissimo accade, ma questo è anche il bello della lingua, il fatto che dà al parlante di oggi la possibilità di accedere ad un significato che funziona ed è efficace, ma che magari non è l'unico, laddove invece il linguista che ricorre agli strumenti dell'etimologia può accedere a percorsi di sentieri e di parole che ci permettono di viaggiare a ritroso nel tempo e tra le culture. E a questo servono dei ricercatori. Grazie Francesca Dargotto, sì, buona domenica e buona domenica. Pasqua, ciao. Ciao anche a voi. E con questo si conclude la puntata di oggi del Riposo del Guerriero. Spero che passiate un'ottima Pasqua, un lunedì di Pasquetta e anche il primo aprile, quindi se volete farci stare uno scherzo, se è uno scherzo divertente, ci sta bene. In questo momento ne abbiamo bisogno perché di scherzi ce ne stanno facendo tanti, ma questo è un altro discorso, anche perché non sono pesci d'aprile. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia e a voi. Ci sentiamo domenica prossima con il Riposo del Guerriero. Alle 10, buona settimana da Stefano Gallarini.